Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle istanze, al pensiero e alle pratiche animaliste, antispeciste e vegan, in onda dal 2012 per contribuire alla costruzione di una società cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 536, nella quale affronteremo il tema del difficile rapporto tra la nostra società e gli animali selvatici, che sarebbe meglio chiamare animali liberi, perché alla fine l'unica distinzione che ha veramente senso e conta è quella. E cercheremo poi di capire come rafforzare in modo naturale, con una dieta variata e sana, quelle difese immunitarie così preziose per contribuire a difenderci in modo naturale dal contagio. Infine divagheremo su come si modificano le nostre abitudini di consumo in tempi di pandemia. Ci sarà spazio anche per una ricetta di cucina che dovrà avere come ingredienti la non violenza e il rispetto di ogni vita, ingredienti che sono poi le fondamenta di questa trasmissione. Infine avremo delle belle sonorità, scelte questa volta dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che come sappiamo ha anche una notevole vocazione musicale ad arricchire il cocktail delle sue molteplici virtù. Speriamo di avervi incuriositi. La vita dell'orso è più importante dei presunti danni economici che procura, irrisori rispetto ai proventi del turismo. Sostenevano questo tutte le principali associazioni animaliste e ambientaliste italiane in un comunicato che risale all'agosto 2019 e che stava prendendo le difese di M49. L'orso trentino, che era stato catturato, condannato poi alla cattività dalla provincia autonoma di Trento e che dopo una rocambolesca fuga dal recinto elettrificato nel quale era stato costretto, ha vissuto in libertà per molti mesi, fino alla sua recente ricattura. Ma che destino aspetta l'orso M49? Una vita di prigionia durissima per un animale di quelle dimensioni, abituato a spostarsi su enormi distanze? O forse sarà condannato a morte, come si teme. E non convincono i comunicati che comparano e soppesano il valore della vita di un orso con presunti danni alla pastorizia, ma nemmeno con un presunto e certamente non quantificabile plusvalore dell'orso in quanto attrazione turistica. Per questa redazione nessun vivente può e deve avere un valore economico. Ciascun vivente merita rispetto in sé, in quanto partecipe, assieme a tutti gli altri viventi, umani e non umani, della bellezza e delle molteplici difficoltà dell'esperienza di vita su questo pianeta. Il servizio su M49 è a cura del nostro corrispondente dalle Alpi orientali, Zenone Sovilla. Marabou, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le micine innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramò, maramò, pane e mice in coro. Maramò, maramò, maramò, maramò. Maramò, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa bevi tu. Quando frutto Dunque, mentre si discute sul destino dell'orso ex Fuggiasco M49, catturato e rinchiuso dalla provincia di Trento, a fare notizia in questi giorni è un altro orso, quello che il 5 maggio, a tarda sera, è stato avvistato mentre girava in centro nel paesino di Cagliano, a una decina di chilometri da Trento e da Rovereto, fra le due città. Capita che di notte qualche orso attraversi i paesi, ma in questo caso l'orso si è pure arrampicato su un terrazzo e ha sfondato il vetro di una finestra. Era incuriosito, non si capisce da cosa. Ma appena ha sentito che all'interno c'erano delle persone, si è subito aggrappato al terrazzo ed è sceso. A caldo si è pensato che fosse una seconda fuga proprio di M49 dal recinto del Casteller, che dista appunto una decina di chilometri da Cagliano. Si trova infatti alla periferia di Trento. Ma il servizio faunistico provinciale ha assicurato che Papillon, come era stato soprannominato dal ministro Sergio Costa, che ha 6 anni, è sempre stato dentro l'area protetta e i forestali giurano che sembra sereno, che nel recinto sta bene. Per tornare all'orso acrobata, visto e fotografato sul terrazzo, si tratterebbe di un giovane d'un paio d'anni che è in fase di dispersione, cioè cerca uno spazio proprio lontano dalle Dolomiti di Brenta, nel Trentino occidentale, dove è nato e dove al momento si trovano circa 90 orsi, che sono il frutto del progetto di ripopolamento avviato una ventina d'anni fa. Ora dunque l'orso acrobata sarà nei boschi, e qui continuerà il cammino di questo orso che si è già spostato di 80 chilometri verso est dal Brenta, superando barriere come il fiume Adige, la ferrovia e l'autostrada del Brennero. E se il video e le foto dell'orsetto acrobata stanno facendo il giro del mondo, resta invece da verificare l'evoluzione della vicenda di M49, che è stato catturato su decisione della provincia autonoma di Trento, una decisione contestata dagli animalisti eppure dal Ministero dell'Ambiente, con il ministro Sergio Costa che ha proposto di trovare per l'orso recluso una destinazione più adatta, in libertà, fuori dal Trentino. Vedremo se salterà fuori quindi una proposta concreta per trasferire M49 via dal territorio che lo ha condannato. Ora intanto M49 resta in un'area chiusa di circa 8 km quadrati, accanto a una zona analoga dove da 9 anni è tenuta un'orsa DJ3, che fu giudicata problematica e a sua volta catturata. In futuro le due zone potrebbero fondersi per far incontrare i due orsi, hanno spiegato i tecnici della provincia, sempre ammesso appunto che M49 resti in Trentino. Infatti per ora sulla detenzione di M49 la provincia, che a guida leghista, non cambia idea. Ciò malgrado i suoi stessi operatori affermino che dentro il recinto questo orso, M49, appare docile e tranquillo. Non certo quell'animale affamato di razzie nei pascoli descritto finora nei mesi scorsi. La cattura infatti è stata giustificata dalla provincia con una serie di uccisioni di capi di allevamento attribuite a M49, uccisioni che però in vari casi potrebbero aver avuto altri autori. E comunque sia, tutte le principali associazioni ecologiste ripetono che se gli allevatori proteggessero con cura i loro animali non succederebbe nulla. Io stesso, parlando poco tempo fa con un forestale trentino dell'azione notturna dei lupi, in questo caso in alcune zone, mi sono sentito dire con molta fermezza che basterebbe utilizzare adeguatamente strumenti come i recinti elettrificati forniti gratuitamente dall'ente pubblico e ricoverare gli animali di notte nelle stalle o nelle malghe, e l'orso andrebbe sicuramente altrove a cercare cibo, cioè nei boschi. Kiss me. Bésame. Embrasse-moi. Kiss me. Báchame. Ba ba. baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ma questi baci a chi li devo dar? Oh bim, bimba birichina, tu sei bebe, bella e sbarazzina, quale tentazione sei per me? Ma questa tentazione che cos'è? Via ba e biebe, cara sillaba com'è? E biblia ubia iblia ubia uba. Sono tanto deliziose queste sillabe d'amore. Vieni con me, c'è il foxtrot che fa per te, che è la frenesia di ballare. È un foxtrot rivoluzione che si chiama Charleston, l'avrai ben sentito nominare. Lola, cosa impari a scuola, manco una parola, sai di Charleston. Lola, manda il cuore in gola, rompe qualche scuola, ma quanta emozione. Charleston, che delizia, che passione. Lola, sai, non è una pola, dopo la spagnola viene Charleston. Oh, Lola, Lola, Lola. Il messaggero veneto.it, in un articolo a firma di Tommaso Carboni del 28 aprile scorso, ci informa dell'impennata pazzesca che hanno avuto i consumi dei sostituti della carne in questo periodo di pandemia. Dagli Stati Uniti alla Cina, infatti, scrive l'autore del pezzo, con la chiusura di mattatoi e anche degli allevamenti di animali, il consumo dei sostituti della carne è cresciuto del 265% nelle ultime 8 settimane. La fonte di questo dato, abbastanza strabiliante, sarebbe un'accreditata società di ricerche di mercato, cioè la Nielsen, questo scrive l'autore dell'articolo. In realtà quella della carne vegetale è una tendenza in crescita molto rapida già da alcuni anni e il coronavirus gli ha dato una spinta notevole. L'industria della carne, sebbene strategica come tutto il comparto alimentare, essendo un settore ad alta intensità di manodopera, per evitare il contagio ha avuto un forte rallentamento produttivo, con un immediato impatto sui prezzi. Quindi sono saliti i prezzi della carne. A quel punto i consumatori si sono spostati su seitan e soia, i cui prezzi normalmente sono un po' più cari della carne vera e propria. Ma a quel punto non c'era più questa distanza. Secondo Impossible Foods, però, una delle società più intraprendenti nel mondo dei sostituti vegetali alla carne, i nuovi dati di vendite non sarebbero passeggeri, ma sono una rivoluzione destinata a restare. Il coronavirus avrebbe riacceso l'attenzione intorno ai legami tra salute pubblica e consumo di carne animale, dando ai consumatori un motivo per passare al cibo a base vegetale. Subito la smentita degli allevatori. Non credo che rimpiazzeranno mai il desiderio di avere della vera carne nel piatto, ha detto pochi giorni fa al Financial Times Ron Prestage, proprietario di una società di produzione intensiva di maiali in Iowa. Eppure, in questi tempi di pandemia, qualcosa potrebbe davvero cambiare, non solo negli Stati Uniti. Perché anche in Asia, e perfino in Cina, dove il maiale, l'anatra e il manzo sono diventati punti fermi della dieta nazionale, ci sono delle caute aperture verso soluzioni alternative alla carne. Questo perché, almeno stando a chi conosce bene quei mercati, i consumatori hanno vissuto davvero come un trauma il collegamento tra coronavirus e le bancarelle di animali selvatici. È un dato di fatto però che negli ultimi mesi, cioè da quando la nuova influenza è partita da Wuhan per contagiare il resto della Cina e poi tutto il pianeta, alcune società di cibo vegetale stanno ottenendo risultati fantastici. Per esempio, Green Monday, che ha base a Hong Kong, ha raddoppiato le vendite online. Sull'isola anche Deliveroo ha registrato una crescita degli ordini di cibo vegano pari al doppio rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. E sulla terraferma, Zen Meat, definita dai media governativi come la risposta cinese all'americana Beyond Meat, scommette su vendite in fortissima espansione una volta che i ristoranti torneranno a pieno regime. Alla fine qualcosa di buono, dunque, questa terribile pandemia potrebbe averlo portato. Non è per l'ambiente che dovremmo smettere di sfruttare gli animali, pensiamo noi della redazione di Restiamo Animali, ma per il loro stesso bene. D'altra parte, molte persone che ancora non sono in sintonia con questa nostra sensibilità apprezzeranno il fatto che gli scienziati di tutto il mondo dicono che allevare animali causa tra il 15 e il 20% dei gas serra responsabili del cambiamento climatico. Parlano d'amore, tulli, tulli, tulli, tulli, pan. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungerà. E di me ti parleranno. I meravigliosi tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, parlano tra loro, il tulli, tulli, tulli, tulli, pan. La luna di lassù dalla cupola blu volge gli occhi lì in giù, udendo questa canzone il suo bianco faccio. Alimentazione, stavolta è Milena Gabanelli che dalle pagine del Corriere.it ci informa di come le nostre scelte alimentari possano incidere sul sistema immunitario, aiutandoci a prevenire i contagi. L'articolo in questione è stato pubblicato il 5 maggio scorso e la sua originalità consiste nel fatto che finalmente si parla di prevenzione, una parola poco diffusa rispetto ad altre parole, come per esempio la parola vaccino o la parola cura, parole abusate ma soprattutto per il momento vuote di significato. A tavola invece tutti noi ci mettiamo ogni giorno, più volte al giorno, e già in quell'umile gesto del mangiare e del nutrirci possiamo attivarci per resistere al contagio, o almeno possiamo provarci. L'articolo comincia così. Quello che abbiamo capito in questi drammatici mesi è che in caso di contagio l'aggravamento è provocato da uno stato di infiammazione profonda che altera il sistema immunitario. Quindi, oltre al rigido rispetto delle regole, quello che possiamo fare è cercare di rafforzare il nostro sistema immunitario, che è strettamente legato al microbiota intestinale, ovvero quell'insieme di microorganismi che regolano molte funzioni e generano una risposta antinfiammatoria contro i patogeni. Il 70-80% delle cellule immunitarie del corpo si trova proprio nell'intestino e quindi l'efficienza di questa attività dipende dalla varietà di alimenti e dalla qualità dei nutrienti che appunto introduciamo con il cibo. L'articolo continua poi facendo un dettagliato elenco dei micronutrienti più importanti per il sistema immunitario e delle principali fonti alimentari che li forniscono. La bella notizia per noi è che i vegetali contengono tutti questi nutrienti, anche in buona percentuale, e che quindi la dieta vegana, naturalmente se è equilibrata e se è anche unita a uno stile di vita decente, diciamo non stressante, rafforza le difese immunitarie e contribuisce al mantenimento di un buono stato di salute. Se volete prendere appunti, questo è il momento. Faremo una carrellata dei nutrienti principali e dei cibi, naturalmente vegetali, che li contengono. Cominciamo dalla Z di zinco, il germe di grano, i semi di zucca, i semi di sesamo, i semi di girasole, l'avena, i fagioli di soia, i pinoli e gli anacardi. Passiamo alla M, magnesio. 4 cucchiai di miglio o di legumi secchi corrispondono a metà del fabbisogno giornaliero. Oppure 6 noci brasiliane, oppure 100 grammi di riso integrale. B come beta-glucani, contenuti nel porridge, nella parte esterna dell'avena, ma anche nei funghi e nelle alghe. A come vitamina A, contenuta nei vegetali di color arancione. 4 carote contengono 2,3 mg, un tuorlo d'uovo, per dire, ne contiene 0,113. Ancora vegetali arancioni, tanto per dare un'idea, la zucca e le albicocche. C come vitamina C, 2 kiwi al giorno forniscono 128 mg, così come 100 g di peperone rosso o 100 g di cavolo nero. O come omega 3, contenuti nelle noci. F come ferro, contenuto nell'avena, nei legumi, nella soia, nelle lenticchie, nei ceci, nel crescione e nel cavolo riccio. D come vitamina D, la sua fonte primaria è l'esposizione solare, soprattutto le braccia, il petto e il viso, ma è contenuta anche nei funghi tipo chiodini. P come polifenoli, contenuti nei frutti di bosco, nel tè verde, nel riso integrale, nel basilico, nell'origano, nella cannella, oppure nell'olio extravergine di oliva. Pensate, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva hanno un potere antinfiammatorio che è paragonabile a quello dell'ibuprofene. S come selenio, contenuto negli asparagi, nei semi di chia, nei cereali integrali. F come acido folico, il cui fabbisogno giornaliero si raggiunge mangiando fagioli, ceci, piselli, lenticchie, bietole o ogni tipo di crucifera, cioè cavoli. Infine, sono ricchi di virtù gli alimenti fermentati, come lo yogurt naturalmente di soia, il kefir, il miso, i crauti, il tempeh, ma anche il tè, tipo kombucha. Naturalmente il consiglio che dà Gabanelli è quello di cucinare materie prime non trasformate, non trattate con pesticidi e che non contengano additivi come zuccheri o sali. Queste sono linee generali da personalizzare a seconda dell'età, dello stato di salute o di eventuali intolleranze e allergie. L'articolo dice anche di evitare il sale, gli zuccheri e l'alcol e si conclude invitando anche alla trasgressione, perché anche la trasgressione ha un impatto positivo sul nostro stato di benessere. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticar, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, che più non ho. Nella rubrica etico-gastronomica Il pasto gentile di questa settimana, il tosco vegan chef Gabriele Palloni dedica una ricetta gentile all'orso carcerato M49. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi è dedicata a M49, l'orso catturato a Trento. Questo per dire che le uniche gabbie che ci piacciono sono quelle di frolla. Gli ingredienti per 4 persone per le pere al rum in gabbia di frolla all'olio sono 350 g di farina tipo 0, 70 g di olio di semi di girasole, 60 g di olio di oliva, 50 ml di acqua, 50 più 100 g di zucchero di canna, cannella in polvere, scorza di arancia grattugiata, un pizzico di curcuma in polvere, 5 g di crema al tartaro, un pizzico di sale, 3 pere e una tazzina di rum. È primavera, svegliatevi bambine, alle fascine messere aprile farruga cuor, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desteranno i prati in fior. In una ciotola unite la farina, i 2 tipi di olio, l'acqua, 100 g di zucchero di canna, la scorza di arancia, un pizzico di cannella e di curcuma in polvere, un pizzico di sale e il cremor tartaro. Lavorate rapidamente in modo che la pasta rimanga friabile. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, avvolgete nella pellicola e fate riposare almeno 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo sbucciate le pere e tagliatele a fette non troppo sottili. Fatele rosolare in una padella con un filo di olio. Aggiungete un pizzico di cannella e i rimanenti 50 g di zucchero di canna. Quando lo zucchero si sarà sciolto, bagnate col rum facendo attenzione perché facilmente l'alcol prenderà fuoco. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Una volta trascorso il tempo di riposo, prendete la frolla e stendetela col mattarello su una spianatoia infarinata. Stendete ad uno spessore di circa 0,5 cm e ricavate dei quadrati di 10 cm di lato. Disponete le pere cotte sulla metà dei quadrati di frolla, praticate delle incisioni diagonali sugli altri quadrati e coprite, facendo pressione sui bordi per sigillare la pasta. Adagiate su una teglia con carta forno e cuocete a 180 gradi per circa 25 minuti. Potete servire con una spolverata di zucchero a velo e cannella o con del cioccolato fondente fuso. Fiorin di noce, c'è poca luce ma tanta pace. Fiorin di noce, c'è poca luce. Fiorin di brace, Madonna dice non nega baci. Baciarle piace, che male c'è? È primavera, svegliatevi bambine. Alle fascine mestere aprire far ruba cuor. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 537 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.